perde il pallone, sì, intercetta, sì, molto sì, lungo, poi Okaka, il movimento in profondità di El Shaarawy, intervento di... Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. Inevitabile che oggi la sconfitta con la Germania, messa in preventivo sicuramente, perché, ripeto, hai affrontato i migliori campioni del mondo, ci fa capire che comunque c'è un gap nei confronti di queste squadre importanti. Bisogna dimenticare che per fare il gioco che propone a noi bisogna stare al 100% a livello fisico, quindi c'è da continuare ad allenarsi a mille perché dobbiamo arrivare all'Europeo in una forma fisica stralimante. Solo così potremo mettere in difficoltà le avversarie, perché comunque quello che ci è mancato stasera è stato un po' di gambe e un po' di personalità. Rimangono dei giocatori sicuramente che faranno parte dell'Europeo e poi vedremo alla fine del campionato cosa, le indicazioni che ci dà, i giocatori che staranno meglio e poi faremo le convocazioni. E oggi è venuto Pierluigi Pardo con le assi eccetera ad aiutarmi ad arginare un po' cimurrito, un po' raffreddato come la nazionale. Anch'io. L'ondata che sta per arrivare, l'ondata anti-Conte che sta per arrivare. Sei pronto? Già in parte, il fronte. Il fronte è caldo. 800-24-0024, numero verde messaggi. 349-238-6666. Beh, va da sé però Pierluigi che... Se l'Italia è questa e prende quattro legnate sui denti della Germania, c'è poco da fare i fighi in vista dell'Europeo. Assolutamente, eh? No, assolutamente. Non è stata veramente proponibile ieri, al di là di tutte le attenuanti ipergeneriche che si possono dare. La principale, secondo me, è legata al fatto che noi con le amichevoli ci capiamo poco, ci piacciono, sì, poco storicamente, quindi la speranza è che poi... Beh, però sai, però la differenza, il gap o gap, come gap, dice Conte, gap come dico io, insomma si sente, Primo marzo 2006 Italia-Germania 4-1, allenava Lippi, c'era il mondiale, sì, in vista. Tanto sì, per sì, l'ultima volta che abbiamo perso con la Germania, Zurigo 95 2-1, allenatore Arrigo Sacchi. I guerdi. No, poi insomma ieri sera l'unica buona notizia di oggi è che per gli juventini almeno è che Bonucci si è fatto poco niente ieri, quindi esatto, è squalificato per la prossima, dovrebbe tornare con il Milan. Bonucci che ieri sera non è stato brillantissimo nonostante queste parole della vigilia. È stato l'allenatore che mi ha permesso di avere delle conoscenze infinite a livello tattico ed è quello che ha cambiato la mia carriera. Se oggi sono uno fra i migliori difensori d'Europa e del mondo, sicuramente buona parte del merito è del mister. Beh, uno dei migliori difensori d'Europa e del mondo, autoincoronazione del signor Bonucci. Vabbè, però ci sta. L'aveva incoronato anche Guardiola quando ha giocato nel Bayern Monaco, dicendo. Sì, sai, queste cose qui sono sempre rischiose. Se noi siamo il blob del giorno del programma radiofonico più ascoltato e più amato nello sport italiano, se siamo il due globone. Sex symbol così, cioè, dirsi queste cose da soli fa un certo effetto. Il globone, sì, beh, se siamo considerati due intellettuali straordinari, sì. Beh, sì. Sono finiti i complimenti, non riesco neanche a pensare ad altri. Autocelebrazione, sì. Però insomma, dai, Bonucci in quella categoria ci sta tutto, quindi insomma, non. Claudio da Trento, la cosa più bella della partita di ieri sera è il porca puttana del trap. Sì. Abbiamo sentito anche prima. Via Conte subito, Buffon. tifone ormai finito, scrive Max, oggi ci vanno giù leggeri. Conte che da subito è multa da 20 milioni per risarcimento dei danni e di immagine. Vabbè, dai Danilo, dai adesso. E poi fustigazione di lapidazione in piazza. Sì, sì, no, d'immagine. No, ma però i risultati, insomma, dicono nelle ultime tre amichevoli con Belgio, Spagna e ieri una sconfitta, un pareggio, un massacro. Una sconfitta, un pareggio, un massacro. Questi sì, sono, sì, questi non sono bene, i risultati. Non bene... Non bene, con soprattutto quello che un po' spaventa, che non c'è traccia di evoluzione, cioè la situazione non è al miglioramento, tutt'altro. Cioè, sì, l'Italia di ieri è forse la peggiore della gestione Conte, al di là della forza degli avversari, che è indiscutibile. Però, insomma, l'Europeo ci saranno gli avversari forti, e non è che possiamo pensare che giochiamo. No, chiaro. Poi possiamo consolarci parzialmente guardando il prato del vicino, che non è verdissimo. Anche ieri le altre, soprattutto quelle del nostro girone, non hanno brillato. Poi ne parliamo con calma. Possiamo, ma le assenze non devono essere un attenuante. È vero, mancano Marchisio, no, e Verratti. Conte potrebbe anche spiegare quel centrocampo che mi è sembrato bizzarro, no? Con i Movioloni, Thiago Motta e Montolivo, che in mezzo, e due pesi piuma come Florenzi e Giaccherini per cercare di bloccare i tedeschi. Germania, peraltro, quando guardi la formazione, riserve comprese, Goetze, Drexler, Royce che subentra, Ozil. Io penso che Verratti, Marchisio, Bonaventura sia l'asse del, sì, centrocampo. Sì. Dici? Beh, dovrebbe, nel senso che mi sembra. Dovrebbe. Tanto oggi c'è il giocone dei 16, lo sì, sì, l'ho visto anche i tweet. Dunque, portiere dovrebbero essere Buffon, Sirigu, per i cui grossi dubbi non ce ne sono. Difensori Barzagli, Bonucci, Chiellini, Darmian. A centrocampo ne mancano tre di difensori, poi diamo anche le alternative. Marchisio, Florenzi, Parolo, Verratti, Giaccherini e Candreva per il centrocampo, e ne mancano due. Attacco Dokoye Ikoyi, fenomeno, non ce l'abbiamo. El Shaarawy, che ieri sera ha fatto un altro gol magnifico, magari poteva pure entrare prima. Pellè e Zaza, ma ci sono due punti interrogativi. Secondo me Insigne in questo momento è il più sicuro del posto in assoluto. No, potrebbero esserci Immobile, Giovinco, poi c'è Eder che dir si voglia, che è stato stroncato dall'Inter, come che è stato diversi, stroncato dall'Inter, però sono d'accordo con Sconcerti, cioè mi sembra comunque ancora un giocatore che se recuperato ci può dare parecchio. Ecco, il resto è poca roba. Ieri sera Rudiger sembrava un fenomeno, avrei voluto in campo uno che fa pressing come Meggiorini, non gli avrebbe concesso tutto ciò. Beh, Meggiorini, sì, no, sì, Meggiorini, Pavoletti, per esempio, la suggestione, no. Insomma, tanto uno di livello mondiale non c'è. Un attaccante di vero livello mondiale non ce l'abbiamo, è inutile stare lì a girarci intorno. Ma ne parliamo con calma. Subito dopo il traffico, 800240024, arriverà il signor Orsi, che ieri sera twittava come un matto. Ah, Nando Orsi twittava? Io stavo facendo la Svezia, poi l'ho vista dopo l'Italia. Adesso traffico, forse era meglio non vederla. Agghiacciante quello che dicono. Tutti convocati. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. Convocati. L'avevo detto prima che servivano questi test importanti per fare delle valutazioni, per tastarci anche, quindi sicuramente abbiamo incontrato i migliori, anche la Spagna, tale squadra che sicuramente sono dei top club, dei top nazionali. Niente, abbiamo visto, abbiamo lavorato, i ragazzi hanno dato tutto quello che c'era da dare, adesso faremo le valutazioni. Sono questi i calciatori, non è che pensiamo che in un mese e mezzo, due mesi tiriamo fuori dal cilindro un qualcosa di diverso o di strano. Mi ha detto tastarci o testarci? Sembrano tastarci, ma comunque. Saluto il signor Nando Orsi, buongiorno, ciao Nando. Buongiorno ragazzi, buona Pasqua in ritardo. Quella del 2017. Eh sì, certo, quella che verrà. Come va? Senti, come stai? Fai a parte un rapido riassunto dei tuoi tweet di ieri sera. I miei? Sì. Siete attenti, non sfugge niente, no? No, io penso, tanto per cominciare, che i due centrocampisti hanno lo stesso passo, sono abbastanza compassati e tutte e due non sono dei rifinitori incredibili, no? Quindi al di là dei tre attaccanti, che secondo me non sono andati neanche male, però sono stati un po' costretti a cercare poco la profondità, perché quando l'hanno cercata non gli è arrivata nessuna palla. E seconda cosa, di giocare spesso con la palla al piede e mai a cercare come ho detto prima, una profondità. Ah. Secondo me Darmian nei tre difensori non è che sia il massimo, no? E poi i due esterni di centrocampo, Giaccherini e Florenzi, sono stati praticamente travolti, surclassati dalla fisicità, sì, di, sì, Hector da una parte e Rudy dall'altra, ma perché Hector e Rudy sono due giocatori che lo fanno normalmente di ruolo. Giaccherini del Bologna spesso fa il terzo alto, se no fa la seconda punta. Florenzo fa il terzino destro, e a Florenzo non si sa neanche ormai che ruolo abbia, no? Quindi li fa tutti, li fa tutti, gli mancano tanto il portiere. Quindi il centrocampo era proprio che la base proprio della squadra, era troppo sperimentale. Sì, troppo sperimentale. Speriamo se fosse sperimentale. La cosa di Darmian mi sembra veramente incomprensibile. L'unica razio di una scelta del genere è voler comunque mentalizzare, come dicono gli spagnoli, abituare la squadra comunque a giocare con la difesa a tre, e però non avendo gli interpreti in questo momento fare una soluzione di emergenza, perché altre spiegazioni non ci sono. Sul centrocampo mi sembra che quello sia il problema, insomma. Ieri sera è stato un chiaro esperimento di Moviola, primo esperimento di Moviola in campo, no? Abbiamo avuto ieri sera. No, perché tra l'altro Thiago Motta è un giocatore che nel centrocampo a due secondo me fa una fatica incredibile, così anche come Montolivo. Certo, per un fatto di spaziatura, è ovvio, è un fatto proprio metrico, direi, no? Perché se lo stesso spazio lo divide in due è un conto, certo, se lo divide in tre è molto meno, e quindi siccome sono due giocatori non particolarmente dinamici, no, ma questo guarda è abbastanza, io ti dico, vedo Verratti, Marchisio, Buonaventura. Questi tre per oppure me sono. Non so De Rossi, cioè non so se recupera De Rossi. Però se lo vedo lontano, molto lontano. Sì, certo. Però non oggi, se ti dovessi dire da dove partire in assoluto in questa squadra, oltre che sulla difesa, dove secondo me possiamo avere dei margini di miglioramento, se recuperiamo la condizione, insomma, Barzagli, Chiellini, Bonucci, mi sento ancora abbastanza garantito, e poi Verratti, secondo me Verratti, Marchisio, Buonaventura, e il resto non ti dico che è residuale, ma viene dopo, perché poi davanti chiaramente devi trovare una quadra, però non ci sono in questo momento secondo me delle gerarchie clamorose. Insigne, no, certamente, se arriva in una buona condizione, però, esatto, appunto, sì. Insigne è l'eccezione, cioè Insigne secondo me è il punto di partenza dell'attacco, esatto, Insigne è il punto di partenza dell'attacco, gli altri sono più o meno equivalenti, e comunque di fenomeni non ce ne sono, è una generazione in cui mancano i fenomeni, e secondo me è troppo semplicistico dare la colpa ai forestieri che popolano il nostro campionato, così come gli altri campionati. Se uno è bravo emerge. A me non ci sono dubbi. Sì, guarda, no. Ti faccio questo gioco. I sette undicesimi, poi sui moduli si può discutere. Secondo me in questo momento sono per me, insomma, sono Buffon, Barzagli, Bonucci, Verratti, Buonaventura e Marchisio e Insigne. Poi sì, è chiaro che puoi giocare con gli esterni, ci sono tanti giocatori utili, Darmian può essere utile ovviamente, Florenzi può essere utile, Candreva può essere utile se giochi davanti, per esempio, secondo me Candreva fa il titolare, sì, cioè, ma pure secondo me però adesso in questo giochino io ti direi che io partirei da questi sette che ti ho detto, nel senso che secondo me, cioè, tu metti Insigne da una parte, Candreva dall'altra, Insigne lo metti perché secondo me è una delle poche vere, certo, variabili di talento che abbiamo davanti. Poi penso una cosa, no? È vero, Conte c'ha questa mentalità aggressiva di andare avanti, e questo a me piace tantissimo per questa cosa qua, però molte volte devi fare un po' di necessità virtù, no? Cioè l'Italia adesso in un momento dove non può neanche usare tanto, cioè neanche essere così spavalda da pensare che vai lì, ecco. Allora che fai? Vuoi giocare con la difesa a tre? Va benissimo, perfetto, a me piace, Conte ci ha vinto tutto, 3-5-1-1, sì, per sì, dire, no? Sì, ti metti là, aspetti, riparti, perché i giocatori per il contropiede ce l'hai. Cioè, stai dicendo che serve un piano B? Però il partner d'attacco per Insigne chi è? Ma lì davanti, i centravanti d'aglieri ormai non esistono più, perché non ci sono, perché ormai in Italia si gioca sempre con questi tre veloci che non danno i riferimenti, e quindi i centravanti, quelli alti, non crescono più. L'unico è Pellè, perché c'è Pellè, perché Berardi è un esterno, Okaka non lo so, poi si può fare tutto, o se no giochi con Eterli davanti, però sono sempre leggeri, cioè la fisicità non ce l'hai mai, e se non hai fisicità cosa fai? Non è che puoi andare lì e combattere. E Candreva tu lo metteresti esterno dei 5? Può fare l'esterno di 5, può fare tutta la fascia, può fare tutta la fascia, può fare anche la seconda punta, perché nella Lazio lo fa. Il problema quindi... è la prima punta, lo so. Tanto quello non lo risolvi, perché, perché sicuramente un tridente con Candreva e Insigne esterni, quello è bellissimo, ci certo. sta. Trovi una punta centrale, ma anche una punta centrale di sacrificio. Però allora a quel punto devi avere un modulo che ti supporta quel tipo di gioco. Certo. E secondo me a quel punto devi tornare a 4. A quel punto devi tornare a 4 con gli esterni bloccati. Corta, no, la coperta corta che i centrocampisti dopo diventano 2 se ne metti 3 lì davanti. Sì. No, io a me un 4-3-3 con i tre che ti ho detto, quindi con Verratti chiaramente che detta i tempi, Marchisio e Bonaventura che fanno gli incursori, Candreva, Insigne esterni e una punta centrale, certo. con i terzini bloccati mi va anche, però, bene, non però, cambierà Pierluigi, mai il modulo. Però Pierluigi, succede questo, che con i quattro devi o metti Chiellini esterno a sinistra, che non lo fa benissimo, o se no devi sacrificare uno dei tre, Bonucci, Barzagli e Chiellini, uno dei tre non gioca. Tanto agli europei andremo con questo modulo, Conte non lo cambierà mai, anche se avete ragione, un piano B servirebbe. Sentiamo un paio di ascoltatori cosa dicono. Fortunato, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie per la telefonata. Buongiorno Fortunato. Come va? Fortunato, come si vive con questo nome Fortunato? Scusa la banalità, cioè fanno Guarda, battute Pierre, ancora. Innanzitutto vorrei conoscerti, dammi modo di sentirti la mano, perché sono un tuo fan accanito. E quando vuoi? Quando vuoi, io sono disponibile a venirvi a trovare. Dove sei? A Perugia? Varese. No, Varese. No, io sono fuori Milano. Fuori Milano. Allora. Abito fuori Milano. Milano. Un po' Milano. Baronno, Milano. Lavoro a Milano, quindi in centro. Pertanto avrei veramente piacere. Sarebbe per me una. Vieni a trovare. Qua, tanto, fra l'altro, quando è che arrivano oggi gli animalisti? No, oggi non vengono, sono venuti. No, vengono. Dovrebbero venire. Io li ho chiamati prima e gli ho detto, ragazzi, ci vediamo Luca? Dopo. Alle 18.30 alle 18.30 arrivano gli animalisti. Ma sono abbastanza grosso, ma non vengo a dare una mano a Cruciani, se li merita. Vabbè. Ma ognuno mangi quello che vuole. Va bene, prego. Sì, no, volevo dire solo questo. Premesso, la qualità media della squadra italiana, purtroppo, rispetto agli ultimi anni, basta. Sì. Fatto questa premessa, che è d'obbligo. Conte è uno che tritura i giocatori sotto l'aspetto fisico. Pertanto, la mia paura da juventino, contentissimo di Allegri, prima, durante e dopo. Li tutela talmente tanto che avremo difficoltà a raggiungere un obiettivo quest'anno, ne sono convinto, però questo non toglie che partendo dai sette che diceva Pier prima, togliendo Bonaventura e mettendo Candreva eventualmente, e partendo dal blocco Juve, purtroppo essendo juventino ma ci deve essere, partendo da una difesa granitica che è sempre quella della Juve, e mi sembra indiscutibile prego? Mi sembra indiscutibile che succederà così. Diciamo che possiamo raggiungere qualche obiettivo, non dico la vittoria finale, ma comunque passare qualche turno, grazie a questo, alla difesa impostata come sempre. La mia paura è che davanti non ci sia nessuno che può dare una mano a Insigne, non c'è una qualità, Zaza purtroppo non è ancora in grado, non abbiamo un centravanti di spessore, Pellè purtroppo è un attaccante ancora, secondo me, medio nell'ambito internazionale, quindi ci manca l'Ariete, e l'Ariete non c'è, non abbiamo questa qualità. Sì. Fortunatamente abbiamo una Juve che sta dando e darà ancora spessore per l'ultimo, presuppongo, questi europei e prossimi mondiali sarà... Mi sembra lunga, mi sembra lunga la strada per Buffon, mi sembra lunga la strada per Barzagli, insomma, sì. prossimi mondiali sì. vediamo, cominciamo a ragionare sul breve. Sul breve. Nando, invece, in questo puzzle El Shaarawy non lo mettiamo da nessuna parte. Ah, mi piace. Ieri sera ha fatto l'unica cosa bella partita dell'Italia è stato quel gol. Ma mi piace perché il ragazzo è venuto via dall'inferno dei casinò di Monaco ed è venuto a Roma, dove Spalletti lo lascia a casa e lo fa stare lo manda a letto presto, ma si vede perché questo è un ragazzo che quando ha cominciato era il miglior 91 del mondo, aveva fatto 16 gol nel girone d'estate e poi dopo si è perso per infortuni, per problemi di... uh-huh. però è arrivato qui, adesso sta rifacendo bene, cioè poi dopo è ovvio, cioè, il problema dell'Italia non sono gli esterni. No, no, infatti, no, ma però vedi, questo secondo me chiama per un modulo diverso, ragazzi, secondo me, perché cioè, secondo me tu non puoi non giocare col materiale a disposizione che hai, non puoi non giocare coi tre davanti, che poi i tre significa anche l'uno davanti, può diventare pure 4-5-1, certo. Può diventare pure però secondo me in questo momento tu e il Shaarawy e Insigne sono due delle cose più interessanti che hai, e lo stesso Candreva ovviamente, ma lo stesso Bernardeschi che è bravo, appunto, anche se è acerbo, no? Però almeno c'è lo spunto, cioè capito, a noi ci servono anche quelli che non è che hanno soltanto gamba, ci servono quelli che hanno lo spunto nell'uno contro uno, che creano una superiorità, e siccome l'Italia ha bisogno proprio di queste cose, perché poi dopo le altre qualità poi non ce n'hai tante, no? Allora c'è bisogno di questo, cioè devi trovare delle soluzioni che ti portano ad essere bravo sugli esterni e tutte queste cose. E secondo me non hai la forza in questo momento per poter avere una squadra particolarmente offensiva, nel senso che comunque... Certo. No, perché non hai nessuno che ti garantisce. Quindi tu devi riuscire a fare... Quanto viene anche Harry Wayne? Appunto. Ma anche i Cardi, anche i Cardi, uno qualunque dell'Argentina, che, di quelli, tra quelli che non vedo neanche convocati, lo vedi fuori, ma guarda, fuori gioco. Ma guarda, io paradossalmente ti dico: avessimo uno come Kalinic, sì, certo. Kalinic fare... sta lì, lo metti lì, certo. Ma posso dirti, adesso può sembrare una bestemmia, se Destro fosse esploso un filo di più, bravo, no? Certo. Era un giocatore che oggi, secondo me, poteva essere utile alla causa. E non ce l'abbiamo, ragazzi, è un momento veramente di penurie di attaccanti, secondo me senza precedenti. Sì, ma è cambiato il gioco, Pierluigi, sì, è cambiato il modo di giocare. Adesso prima c'è stata la bella palla lunga dei difensori verso l'attaccante, adesso i giocatori cominciano ai difensori e rigiocano con il portiere 10 volte. Per quale motivo non si sa, ma stanno sempre lì. Immobile a rimenare la palla. Immobile dopo l'infortunio. Sì, ma pure Immobile non è una punta centrale, Immobile no, che si muove, che certo. che svaria. Ma guarda, io paradossalmente, ed è la seconda volta che lo uso, ma io metto Zaza lì davanti perché è incosciente. Zaza è matto, perché lui non gli frega niente, lui non c'ha problemi, lui gioca allo stesso modo come se fosse la fine dei campioni del mondo, come se gioca una partita amichevole, no? Sì. Con la stessa spensieratezza. In questo hai ragione, anche a me tra le punte centrali è quella che convince di più, al di là di ieri sera in cui abbiamo fatto la nazionale, dai, sul Candreva Insigne esterni, con il Shaarawy che entra, fatto. E con Bernardeschi che ce lo portiamo, Zaza però devi giocare a quel punto, devi giocare a 4. Non giocherà mai con gli a 4. Esterni bloccati. Nando, grazie. Capito, Nando. Ciao, ragazzi. Ciao. Ci vediamo per la borsa 800-24-0024. Tobia, stia lì, non si muova, poi le diamo la palla. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Convocati. Quello che di buono abbiamo fatto con la Spagna penso che sia agli atti e rimanga lì. C'è anche da considerare però che stasera siamo venuti un pochino meno, e seppur insomma coi meriti dei nostri avversari, però sicuramente possiamo fare molto meglio come intensità, come pulizia alcune volte di giocate, come tante piccole cose che magari con la Spagna c'erano uscite molto bene e stasera un po' meno. È meglio perdere una partita adesso piuttosto che perdere all'Europeo, certo fa malissimo perché perderla così è brutto, ci deve dare consapevolezza dei nostri mezzi, cioè che siamo forti, però se ci alleniamo e se diamo il massimo, altrimenti siamo una squadra normale come tutte le altre. Questi erano Buffon e Zaza dopo la legnata di ieri sera. Poi c'è chi chiede: ma Jorginho non si poteva farlo giocare in quel centrocampo, è sembrato così mal assortito, e che insomma è un giocatore che Conte ha chiamato forse per provarlo. Ieri sera non si è visto, è stato in panchina tutta la partita. E poi c'è chi dice Pavoletti, e poi c'è chi dice Gabbiadini, e poi c'è chi dice ma Giuseppe Rossi. No, Giuseppe Rossi mi sembra che dopo questa mezza stagione la squadra ultima in classifica in Spagna non sia pronto. Tobia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Salve. Mi piace, grazie per la convocazione. A lei. Mi piace entrare nell'aspetto tattico della gara, più che girarci intorno, perché Ieri sera c'è stato un allenatore, quello della Germania, che ha chiuso molto bene le fasce, ha chiuso Giaccherini e Florenzi dall'altra parte, e con due centrocampisti statici, sincopati, che io farei giocare in Serie B come Thiago Motta e Montolivo, non sono riusciti. Quando tu non ce la fai sulle fasce, devi cercare anche centralmente, ma per sfondare centralmente devi a tutti i costi avere delle persone in grado di puntare l'avversario, cioè, e quelli non solo, ma noi abbiamo subito 4 gol perché i due centrali, cioè Thiago Motta e Montolivo, non solo non hanno dato il supporto in avanti, tant'è vero che sta palla girava sempre quando si appoggiava sempre troppo dietro, ma non hanno dato nemmeno rinforzo alla difesa, ne abbiamo presi 4. La sì. chiave è lì. Io vorrei dire, le chiavi sono, possono essere, può essere lì, possono essere tante, lo dicevamo prima con Nando Orsi. È chiaro che non puoi contrastare la fisicità dei tedeschi sugli esterni con il pur bravissimo Florenzi e con il soldato scelto di Conte che è Giaccherini, no Pianluigi? Assolutamente. Le chiavi no, ma assolutamente sono... non... Ieri, francamente, poi diverse. È facile parlare dopo, per cui... Ma Giorginio non l'avresti provato? Giorginio è un giocatore che, soprattutto in assenza di Verratti, può dare... Però Giorginio, lo sappiamo... un centrocampo a 3 o un centrocampo a 5, sempre il famoso discorso di spaziature di cui parlavamo prima, insomma il caso di Giorginio è addirittura quindi, emblematico, lui faticava moltissimo, lo cancelliamo dalla lista dei possibili, ma io giocherei, okay, ti ho detto, io giocherei con un centrocampo a 5 senza alcun dubbio. Allora, Antonelli, De Silvestri, ballottaggio per ruolo da esterno, Cancello. Secondo me Antonelli, non lo so chi è favorito. Non lo so chi è favorito. In fondo non cambia molto. Non cambia moltissimo, diciamo. Quindi, allora, che facciamo? Giochiamo a tre? Siamo tutti d'accordo? Giochiamo a tre? Tutti d'accordo? Conte vuole giocare così. Chiama Antonio un attimo. Antonio! Dove stai? Se giochi a tre, a quel punto di esterni per fare, diciamo, i quinti, quindi esterni da una parte e dall'altra, hai Florenzi, hai Darmian, hai eventualmente sì, De Silvestri, Antonelli. Oh. Chi vuoi cancellare? Non lo so, Bernardeschi lo porto? Lo tengo? Io Bernardeschi lo porterei. Anch'io, però ne mancano poche di faccine tra centrocampisti e attaccanti. Bernardeschi o Bonaventura, mi sembra che sia uno dei due. Io li porterei tutti e due. Tutti e due? Sì. Poi mi dici chi lascia a casa. Intanto Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, vorrei sapere la vostra opinione su questa mia osservazione. Prego. Io ieri sera ho visto un numero veramente eccessivo di passaggi sbagliati da parte della nostra nazionale. E uno si domanda, ma è impossibile che i professionisti commettano questi errori a 15-20 metri? E probabilmente, se uno ci riflette, questi errori sono perché chi riceve il passaggio arriva troppo tardi ad occupare la zona dove arriva il pallone. Quindi secondo me è un errore fondamentale che questi giocatori corrono poco e arrivano in ritardo dove devono andare ad occupare la zona del campo. E quindi e poi giochi contro la Germania, evidenzia tutte queste lacune grandi e piccole, magari può essere compresa nella voce di Buffon, dobbiamo fare meglio anche le piccole cose, eliminare le sbavature, ma insomma, visto ieri sera c'è altro che da eliminare le sbavature. Direi di sì. Quindi io dicevi... penso però che onestamente il centrocampo Thiago Montolivo difficilmente lo rivedremo. Thiago Montolivo spero proprio non... anche perché gli esperimenti sulla Moviola in campo sono appena iniziati, non è che si può sperimentare la Moviola in campo tutte le volte, e negli europei non è compresa la sperimentazione della Moviola in campo. No, quindi vabbè, adesso non deve diventare una, posso dire, non deve diventare adesso una campagna contro loro due, è che secondo me sono male assortiti. Te ne puoi permettere uno con quelle caratteristiche lì, ecco, tutto qui. Quindi Marchisio, a centrocampo, Marchisio, Florenzi, Parolo, Verratti, Giaccherini, Candreva, ne mancano due. Sì. Chi portiamo? Giorginio l'ho cancellato. Montolivo, uno tra Montolivo e Thiago Motta, boh, vediamo, magari anche nessuno dei due. Bernardeschi, Bonaventura? Anche se Bernardeschi è più attaccante. Io Bonaventura lo porterei sempre. Bonaventura per me è titolare di questa squadra. Conte non ha visto. Sì, Conte non l'ha visto tantissimo. Però se devo valutare quello che ho visto quest'anno in campionato, insomma, mi sembra veramente di aver visto un giocatore pronto, pieno, maturo, insomma. Quindi io non avrei grandi dubbi. Piero, buonaventura. Piero, buongiorno. No, buongiorno, buongiorno a te. Dimmi. Volevo dirti, mi è partito un pensiero prima, ero in macchina. Partito, sì. Ti ricordi quando eravamo all'oratorio e facevamo a pari o dispari per scegliere i giocatori? Sì. Ecco, io ho pensato, se dovessi scegliere io, sceglierei Ozil o Montolivo? Il centrocampista del Real Madrid o Giaccherini? Cross. O Giaccherini. Esatto. Io prenderei forse Cross. Con tutto forse, rispetto per Giacca, che poi è utilissimo. Per fargli un regalo prenderei il portiere, ecco. Ter Stegen? Però degli altri, ruolo per ruolo, ragazzi, sono più forti. Ma poi Draxler, che ieri sera ha fatto un partitone. No, ma poi è una generazione... No, ma sono più forti. Il punto, sono campioni del mondo, questo è il punto di partenza. Bisogna capire come possiamo fare bella figura. Considerando poi che questa è una competizione nella quale ha vinto la Grecia, tanto per fare un esempio, no? Cioè, intanto partiamo, cerchiamo di partire bene, cerchiamo di stare bene in campo, cerchiamo di concedere poco agli avversari e poi si vedrà. Questa è la mia sensazione. È chiaro che non saremo mai favoriti, nemmeno se Conte fa un miracolo in un mese, perché non siamo favoriti, punto e basta. Su questo non c'è da discutere. L'unico miracolo che può fare Conte è naturalizzare Icardi, Higuain, uno di questi qui, insomma. Sì, esatto. L'unica cosa che Dybala, proprio comprarli al mercato. Michele. Buongiorno e innanzitutto buongiorno anche ai vostri ascoltatori. Dica. Dunque, ho visto ieri la partita e non venivo alla nazionale da un po' di tempo. L'idea che mi sono fatto è che questa doccia fredda era meglio rinviare l'appuntamento della nazionale. Dei cambiamenti, soprattutto quando in realtà vanno dentro dei giovani, per cui io non sarei tanto negativo. Proporrei una cosa, diciamo, tanto impegno, perché poi quando gli italiani mettono il cuore alla fine riescono a sopperire anche a delle lacune tecniche. Una cosa è certa, penso di poterla dire questa, che diciamo l'Italia deve fare i conti con quel che ha a disposizione e oggettivamente non ci sono grandi fuoriclasse, per cui c'è da mettere tanto impegno e soprattutto avere la fortuna di avere un blocco che risponde a requisiti di elevato standard agonistico e tecnico nel periodo degli europei. E non dimenticarsi di accendere qualche candelone, qualche grande cero. Esatto, perché poi di questo stiamo. No, però ti dico, secondo me qui l'obiettivo di partenza è avere una squadra solida. Noi non siamo nella condizione oggi, no, il famoso discorso può essere martello, può essere incudine. In questo momento non siamo martello, cioè non siamo una squadra che può pensare di andare all'europeo a dominare. Perché non abbiamo le qualità, prima di tutto non abbiamo le qualità offensive per poterlo fare, quindi dobbiamo puntare su altre doti. Abbiamo una difesa che in questo momento è un po' sgarrupata, come dicono a Napoli, perché ha degli infortuni, ma complessivamente mi dà ancora delle garanzie, che è il blocco Juve. Abbiamo un centrocampo dove secondo me invece abbiamo imboccato una strada che è sbagliata, e poi abbiamo dei buoni esterni offensivi e dei buoni giocatori di movimento davanti, senza avere il punto di riferimento fondamentale. Quindi le soluzioni, il punto di partenza secondo me, mai come stavolta, deve essere quello di essere robusti, solidi, concedere poco, avere grande intensità, che poi è quello che sentivo dire, credo fosse Bonucci nella dichiarazione precedente, no? Abbiamo bisogno di avere gamba, soprattutto di avere grande condizione fisica. La squadra molto muscolare, molto di corsa, e poi in una competizione come questa puoi anche vincere 1-0 e ti basta, non c'è bisogno di fare 38 vittorie, no? Sì, no, questo è chiaro. Dunque, traffico 800 24 00 24, torniamo subito. Tutti convocati. Pantera millesimato, l'IRP di Infracomitalia per le aziende vitivinicole, sempre col TH. Vi presenta convocati. Se qualcuno si è esaltato dopo la perdita con la Spagna ha commesso un grande errore, perché non abbiamo fatto niente, cioè alla fine un pareggio con la Spagna non è niente, però sono convinto che questo risultato è importante, ecco, averlo ottenuto oggi ci dovrà far capire e ci dovrà servire per migliorare da qui all'Europeo. Siamo stati disattenti in alcune occasioni, abbiamo commesso degli errori gravi, a questi livelli quando commetti degli errori li paghi, per cui poi diventa anche difficile recuperare le partite. Io ho avuto la palla sul 2-0 per riaprirla, non sono riuscito a far gol, quindi è lì che sicuramente dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare su tanti aspetti. Oggi le giocate sono venute un po' meno bene rispetto alla partita con la Spagna, però bisogna avere equilibrio e andare avanti a lavorare, credere nel lavoro del nostro allenatore. Questi erano Giaccherini e Montolivo, ma piantate di dare le formazioni a Vanvera, che sembrate due anziani al bar, avete rotto, piuttosto parlate anche delle altre squadre che partecipano, che è più interessante. Bene, tra bene, poco bene, disquisizione bene. Su Estonia, oh, Serbia 0-1. Il cantiere qui sotto, ma ha sbagliato Scozia tutto, Danina. Ha sbagliato il muretto, sai, la gag sui cantieri. No, sono d'accordo con voi, tanto poi non è che decidiamo noi. Mi sembra l'argomento del, io se del, volete del vi momento. Posso parlare per tutta la serata di Svezia Repubblica Ceca, ho fatto la telecronaca ieri. Certo. Ma dire. Poi lo facciamo, facciamo. Ma dopo, di dopo Marcus Berg, ma dopo non poi ci facciamo il pareggio mancare di Vidra. Ha giocato Ibra male, questa è una notizia, ha giocato abbastanza tanto male, ha detto che smette, ha giocato non forse... solo sì, ma quello è, mi sono informato, è una gag, cioè l'ha detta così per Strunzato. Prendere un po' per il culo i giornalisti così. Beh, in realtà non ha nessuna intenzione di smettere, e invece ha molta intenzione di vedere dove giocare, cioè se la vuole scegliere bene, questa potrebbe essere l'ultima esperienza di un certo livello della sua carriera. E no, ieri male, abbastanza distratto, anche abbastanza lezioso. Poi nel secondo tempo ha cercato più spesso il gol, insomma, secondo me non si è divertito molto, non c'aveva tutta sta voglia. Sì. Federico Ferri, buongiorno! Ciao, buongiorno. Ciao. Saluto gli amici di Radio Villardilla. Sì, grazie. E noi salutiamo Federico Ferri dai pianeti. Oggi di Sky, siamo incimurriti, quindi siamo in effetti un po' Villardzilla. Però abbiamo bisogno di un camion di aspirine. Tra poco arrivano gli animalisti e ce le portano. Ecco. Per inciso, Draxler ha visto ieri sera, ha spiegato un po' a tutti perché Allegri ne ha fatto una malattia. Beh sì, in realtà poi applicato alla Juventus di questa stagione credo che i rimpianti debbano essere minori, insomma, per come Allegri è riuscito a costruire la squadra con quello che ha avuto dal mercato, però certamente è un gran bel giocatore. È un bel giocatore e soprattutto non si spiega chi derideva nelle prime partite della stagione, ricordo chi ha un po' deriso quelli che andavano dietro a Drexler dicendo buttati via i soldi, meno male che non è arrivato, eccetera. Questi giocatori di talento, talento ormai abbastanza consolidato, insomma, non giocatori affermati, ma comunque dal talento evidente, alla fine vanno anche un po' aspettati. Non è che all'estero buttano via i soldi a caso, completamente sì, a caso, a parte raramente capita in Inghilterra, soprattutto la United, però per il resto è difficile che si buttino via i soldi anche, a caso. Anche degli altri ci mettono del loro, anche al City o al Chelsea, non è che si fanno mancare molto. Ma no, piuttosto a voi, a te a parte, lo conoscete molto meglio di me, un Conte così abbacchiato come dopo la partita, non era neanche arrabbiato. Io forse non lo ricordo. Vedevo ieri sui social, c'era già chi malignava la testa in Inghilterra. C'era già chi diceva la testa in Inghilterra. Questa è proprio una stupidaggine. Questa è una stupidaggine clamorosa. Certo. No. Ma poi, ma se posso su questo, Pierre, ma voglio dire, che convenienza avrebbe Conte a pensare al suo futuro al Chelsea e a fare male l'europeo? Cioè, nessuno, fare male l'europeo sarebbe un fallimento di Conte. Questa nazionale è Conte, non è inutile che diciamo, questa nazionale è Conte, cioè sì, Conte sì. È il 50% di questa nazionale. Se questa nazionale fallisce, fallito Conte, non ci sono giocatori che tengano e la Serie A offre poco, eccetera. Conte è un allenatore che deve dare delle garanzie, quindi se l'europeo sarà un fallimento, e per me non sarà un fallimento, sarà colpa di Conte, quindi Conte sarebbe un pazzo suicida a ma è chiaro. No, infatti, ma anche perché vista, mai come questa volta noi abbiamo una squadra media, però con un allenatore strapagato certo. e di fascia alta, quindi se vuoi questa è quasi una, oltre che un eventuale fallimento o trionfo di Conte, è una ulteriore pagina del dibattito su quanto contano gli allenatori, no? Cioè, questo è proprio il classico caso in cui tu hai una squadra media che però un allenatore reputato molto bravo, oggettivamente molto bravo per quello che ha fatto in questi anni, può darti un valore aggiunto. Quindi se questo valore aggiunto arriverà è un conto, se non arriverà sicuramente no. Però insomma, possiamo dire sta... che rischia molto Conte dal punto di vista della reputazione con questo europeo. Sicuramente. Diciamo Federico, io penso che dal punto di vista della comunicazione, ne abbiamo parlato molto in questi giorni, Conte forse se la poteva giocare meglio, forse è stato soprattutto un eccesso di sincerità aver scelto certe espressioni, aver detto la sua sul garage, su tutto il resto, però secondo me poteva e doveva giocarsela meglio, non so che ne pensi. Sì, la penso come te, soprattutto perché ha mostrato probabilmente con una certa ingenuità da questo punto di vista, lui che invece sul piano della comunicazione, e qui poi torno a quello, alla domanda di Carlo sul fatto che fosse abbacchiato ieri sera, sul piano della comunicazione sta lavorando molto anche su se stesso, difficilmente parla se non per mandare un messaggio preciso, però da questo punto di vista la parte snobistica, diciamo, che ha mostrato nei riguardi della nazionale in qualche modo, no? Sostenendo che non si potesse lavorare, che in qualche modo lasciando capire non mi avete fatto fare quello che volevo e quindi me ne vado. Da questo punto di vista forse sì, prima dell'europeo in questa fase particolare non se l'è giocata molto bene. Per quanto riguarda invece ieri sera, io credo che lui tenga questo atteggiamento perché sa che in qualche modo, giocata con gli uomini con cui ha giocato, contro l'avversario con cui ha giocato, poco di più poteva fare o comunque non tantissimo conta. Adesso io credo che in questi 4-5 giorni, insomma, abbiamo dato un peso a questa amichevole che secondo me da anni non si dava. Cioè, quando mai abbiamo valutato in modo così importante, anche dal punto di vista delle prestazioni singole, un'amichevole che arriva in un momento della stagione in cui sappiamo benissimo che i giocatori italiani giocano così, da sempre. Sì. Adesso certo, questa è una squadra che deve costruirsi, eccetera. Però se vogliamo andare al punto, questa nazionale vale meno delle grandi nazionali, delle nazionali certo, importanti, d'accordo, le più forti che ci sono adesso. Che cosa deve fare questa nazionale? E lo schiaffo può essere pure utile, Federico. Lo schiaffo può essere pure utile, perché nella storia certo, della nostra nazionale lo schiaffo in faccia è un classico. Ma certo. Questa nazionale non deve fare brutta figura, cioè deve fare un europeo molto onorevole, arrivare almeno ai quarti bene, se non alle semifinali, e questo di più te lo deve dare Conte, costruendo una squadra esattamente come ha portato la Juventus a vincere lo scudetto dal settimo posto dell'anno precedente, con una squadra che era inferiore almeno due squadre di quel campionato. Poi, detto questo, se abbiamo due estremi, no? L'europeo di Prandelli e il mondiale di Prandelli. Per me questa nazionale sarà più vicina all'europeo di Prandelli che al mondiale di Prandelli o di quello di Lippi di 4 anni prima. Speriamo, questa, speriamo la differenza la deve fare anche Conte. Grazie Federico, un abbraccio. Ciao, ci fermiamo per il GR e torniamo. Montolivo, Tiago Monta, perde palla, viene recuperato da Lorenzo. Tutti convocati. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Dal 31 marzo, Renzo Martinelli al cinema con il suo nuovo film, Ustica, una verità inconfessabile. Vedi quella sagoma scura laggiù? Quella è Ustica. Il 27 giugno 1980 il volo Itavia Bologna-Palermo precipita in mare al largo di Ustica. 81 vittime. Una tragedia, buonasera. Per più di 30 anni ipotesi e smentite sulla verità, tra indagini, reticenze e false testimonianze. Su Radio 24 il film diventa un radiodramma. Il dolore di una madre, l'indagine di una giornalista, la ricostruzione di una verità. Questa è la prova che c'è stata una collisione in volo. Ustica, una verità inconfessabile, di Renzo Martinelli. Da giovedì 31 marzo al cinema. Info su radio24.it. convocati. Dunque, ancora ascoltatori, Pierluigi Pardo oggi qui con me per arginare la marea anti-Conte, ma poi stiamo per aprire il discorso. Siamo laici pure su questo. A me ieri mi ha deluso la squadra, non è che adesso Conte sia inattaccabile. A me ha deluso e non l'ho neanche capita come si è schierata la squadra. Quindi sì. C'è a chi piace Trapattoni, a chi non piace, ad esempio. Come seconda voce come allenatore? No, seconda voce. Te? Ti piace? Dai, andiamo avanti. Allora, tra poco apriamo le porte all'Europa e al mondo, ovviamente dando un'occhiata a ciò che è successo in giro sugli altri campi, sempre al capitolo nazionale. Ma intanto, Maurizio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio per avermi chiamato, ecco. Niente, voglio dire una cosa velocissima, che è questa. A parte il fatto che queste partite di prova sicuramente servono per capire i punti deboli e i punti forti della squadra, quindi ci poteva stare anche che perdavamo, sicuramente è stata una partita disastrosa e su questo siamo tutti d'accordo. E l'unica cosa che voglio dire è questa, per il discorso del centravanti. Io tifo il Cagliari come squadra del cuore, e quindi sono al di fuori del nome che adesso io dirò di questo giocatore, ma secondo me il centravanti, un centravanti alla Gigi Riva l'abbiamo, ed è Pavoletti. Beh, Pavoletti è il classico centravanti che potrebbe essere non utile di più alla nazionale. Io vi saluto e vi ringrazio tantissimo. Ma sì, Maurizio, ogni candidatura credo sia quella buona. Pavoletti non è un giocatore però che ha fatto, insomma, ha già 27-28 anni, non ha esperienza internazionale per quel che può contare. No, Pavoletti avrebbe probabilmente meritato, cioè c'è un po' di rammarico secondo me di non avergli dato la possibilità di fare un po' di esperienza internazionale, perché lui ha avuto un periodo particolarmente caldo, un paio di mesi fa, tre mesi fa, insomma fra novembre e gennaio, no? di risultati importanti, di gol in serie, quindi è esploso e forse in quel momento lì, però sai, il fatto che non sia stato chiamato è perché evidentemente comunque diciamo c'è rete, bravo dice, giocatore, ma non è uno di quelli che ti cambia, ecco, Conte insomma. Dice che se, insomma, che non gli dà nulla, penso, più di Pelé o di Zaza, ecco, chiaro. Quindi, poi si può discutere su questo no, beh, secondo me non ha neanche torto. Per me è un grande rimpianto, rimane Gabbiadini, ma nasce dal fatto che sta giocando pochissimo, perché insomma Gabbiadini ha un grandissimo talento, anche se non è comunque l'attaccante centrale di cui parlavo prima con Andorzi. Ha deciso però di rimanere lì e forse esploso giocarsi. destro poteva essere un giocatore secondo me adesso con, un po' come caratteristiche lo stiamo aspettando da un sacco di tempo. Non dico da quanto male. Stiamo aspettando Balotelli, ma siamo lì. Kemal, buongiorno da Parma. Pronto, buongiorno, sono il signor Kemal. Sì, sono signor Kemal, buongiorno. Sono con passaporto italiano. Sì, dica. Vi sento tutti i giorni, amo il vostro trasmissione, amo l'Italia, amo il calcio, soprattutto amo l'Italia, amo pure la nazionale. Volevo dire il mio parere per la convocazione di Conte. Sì. Comunque Conte adesso deve, in questo momento dove è uscito tutto già la sua forza, vuol dire che è un allenatore veramente bravo. Lui in questo momento ha una difficoltà, sappiamo tutti, sapete pure voi, perché non c'è un Pirlo, non c'è a Cernacamo, non c'è un Lugatoni che America, sì. Lui ha vinto il mondiale del 2006. Sì, ma si è una delle nazionali più scarse che dal punto di vista del talento che ricordiamo a memoria d'uomo o d'elefante, non c'è discussione. È una nazionale che di talento non ne ha molto. Non ne ha molto, c'è chi ci dice che Balotelli è l'unico europeo, per l'europeo unico attaccante di livello mondiale. Sì, però è vero pure che troppo stiamo tempo che non dà tracce tempo, di sé, insomma, non dirlo a me che come si va a chiamare penso, Bernardeschi, no? Mi dicono ieri sera Antonio Conte al ristorante con la carta di credito scoperta e lui gli ha prestato 10 euro per la cena. Stiamo diventando i parenze cruciali di questa trasmissione, non diciamo mai nulla che ci comprometta, mai nulla, mai per carità. Sturaro è caduto nel dimenticatoio, ma no, però Sturaro mi sembra un giocatore di quelli utili per poter fare eventualmente numero in questa nazionale, cioè non mi sembra uno di quei giocatori capaci di cambiare. Non c'è un giocatore che Conte ha lasciato a casa. Ti dico la verità, secondo me, forse sono fissato io con Bonaventura. Bonaventura, secondo me, sta facendo una stagione che dà la sensazione che possa avere qualcosa di diverso dagli altri. Su Verratti, non credo ci debbano essere discussioni. E Marchisio, comunque, soprattutto nel suo ruolo, quello più tradizionale, cioè quello di incursore. Dinamismo, è uno con capacità di inserirsi, no? Di trovare anche qualche gol, Ma ci consoliamo, perché c'è Nicola Cecere che oggi sulla Gazzetta scrive: ma le nostre rivali non sembrano super, quindi proviamo a guardare l'Elba del vicino e a scoprire che il Prato è un po' spelacchiato. Ciao Nicola. Ciao a tutti. Tra l'altro io poi sono stato uno degli ascoltatori di Pierluigi ieri, che ho apprezzato nel secondo tempo quando ha cercato di tenere viva questa partita tra Svezia e Repubblica Ceca, che si era letteralmente addormentata. E abbastanza, Pierluigi, abbastanza. Sì, ha dato fondo a tutta la sua consumata abilità di telecronista per cercare di tenerci lì. E ho visto questa partita della Svezia nella quale, dico la verità, Pierluigi può confermare, non è che abbia visto chissà chi è. No. Mi è piaciuto Martin Olsson, l'esterno sinistro della Svezia. Mi è piaciuto Martin Olsson, mi è piaciuto poco Ibra. La Repubblica Ceca è una squadra rognosa che ha vinto il suo girone, fra l'altro, con 22 punti, insomma. Però sì, non sono due favorite. Poi il Belgio ha perso in questa partita strana, campi sì, col Portogallo, con il Portogallo, col Portogallo 2-1. E anche un Belgio cui mancava, a me sembra che la Francia zitta zitta, considerato anche il fattore campo, insomma, si stia ricostruendo bene. Sì, che dici Nicola? La Francia è certamente la favorita con la Germania di questo europeo, parliamoci chiaro. Noi siamo un gradino più sotto, penso che 12 giocatori decenti riusciamo a metterli insieme, e poi come sempre lì conta molto come arriviamo atleticamente, per cui da appassionato e da tifoso della nazionale sono molto arrabbiato per questa presa in posizione di Mihajlovic, che si ostina a non voler anticipare questa benedetta finale di Coppa Italia. E andiamo incontro un attimo a Stazione, tanto il Milan non c'è nulla da giocarsi, la Juve probabilmente a due giornate dalla fine avrà chiuso la pratica, perché il campionato del Napoli è oggettivamente difficile, per quello lo dico. Non io ho anche quel weekend lì, c'ho un sacco di roba da fare, quindi se me l'anticipa me farà anche un favore, quindi sono d'accordo con te, facciamolo il martedì prima, esatto, no? Esatto, cioè cerchiamo di dare qualche giorno in più a sta nazionale nostra, in maniera da perché tra l'altro se noi riuscissimo come campagna di opinione generale a obbligare i benedetti presidenti a fare una Serie A 18 squadre, risparmieremo un mese di campionato, ci risparmieremo quelle 2-3 squadre che sempre ogni anno si staccano, non c'hanno niente a fare. Ora avremo negli ultimi due mesi 5-6 squadre, il Chievo, il Bologna, il Sassuolo, che non hanno più grandi obiettivi, l'Empoli, non sanno chi vanno in campo, così insomma, io sono dell'idea, Nicola, che ci debbano essere i premi. Una parte, sai, una parte dei diritti televisivi viene ripartita secondo i risultati in campo. Io la ripartirei col proporzionale, come, nel senso che secondo me ogni partita, ogni punto ottenuto deve pesare. Deve pesare. Il presidente deve avere 200.000 euro, quello che è, perché se no veramente tu arrivi, soprattutto con le 20 squadre, ad avere appunto una zona grigia di 7, 8, ma in certi casi anche 10, 12 squadre che veramente non possono andare in Europa e non possono retrocedere. Se guardi la classifica, ce ne sono già parecchie. Come facciamo a obbligarli? Come facciamo a obbligare lor signori, Nicola? Facciamo una manifestazione? No, ma se tutti quanti ci mettiamo a tempestare questi qua, io penso che qualcosa, se tutti gli organi di informazione si mettono a dire guardate basta, io penso che qualcosa alla lunga otterremo, così come la Serie B attualmente è sovrastrutturata. Insomma, la Serie B a 20 squadre va bene, a 22 no, cioè, questa è la verità. E per quanto riguarda, tornando all'Italia, io penso che avremo un europeo molto equilibrato, non vedo grandi fuoriclasse, ho detto di Francia e Germania. Avete visto l'Inghilterra, che è una l'Inghilterra che ha perso, che ha vinto in Germania, ha perso ieri sera con l'Olanda, che è la grande esclusa dell'europeo. Sì, quindi condivido in pieno quello che dicevate, che abbiamo una nazionale molto modesta come talenti, come ricchezza tecnica, questo è vero, forse la più scarsa degli ultimi anni, a memoria di quelle che ricordiamo noi. La nostra generazione è sicuramente quella che ha meno talenti. Io vorrei ringiovanire Totti, vorrei ringiovanire Del Piero, insomma, per intenderci, anche Gilardino più giovane mi andrebbe bene, insomma. Però non facciamoci la testa, perché lì se arriviamo atleticamente bene in quel mese lì, con Conte che è un osso che li mette lì, li massacra sul piano degli impegni, cioè, io penso che 12 giocatori buoni ce li abbiamo. Per esempio la difesa è buona, cioè il primo della Juve più Buffon è buona, è una buona difesa. Certamente. Poi è chiaro, se Barzagli si fa male, Chiellini si fa male, e Bonucci ha un calo, eccetera, allora è chiaro che andiamo in difficoltà. Però su quei quattro lì possiamo contare, sono giocatori di valore internazionale, a centrocampo, sono d'accordissimo su Bonaventura, è il centrocampista che forse ha fatto il campionato migliore per continuità. E anche sì, quello che si è caricato sulle spalle il Milan tante volte, insomma. Ci ha giocato, Marchisi è uno che dà garanzie, certamente dà garanzie, insomma. Verratti è un ottimo regista, è un ottimo play. E noi dobbiamo arrivare ad avere una squadra solida, una squadra solida, intensa, che stia bene, che abbia gamba, e poi trovare qualche soluzione, lo stellone che ogni tanto trovare lo Schillaci del 90, questo fa parte della storia delle competizioni come mondiali. Voglio dire, se l'Argentina con l'attacco che ha dovrebbe vincere a prescindere, no? E quindi vuol dire poi che invece in realtà ci possono essere anche altre doti, cioè un mondiale o un europeo lo puoi vincere anche in maniera diversa. Pensare di vincerlo è eccessivo, però l'esempio della Grecia è il caso limite, però la Grecia 2004 beccò 5-6 partite pazzesche. La Danimarca sì. Io me la ricordo in epoche più lontane, sì, all'ultimo istante, me la ricordo bene. Grazie. No, è così, ragazzi, vedo che siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo. Un plebiscito. Grazie, Nicola. Ciao. Io vi faccio sentire prima di andare da Guido e da Gianni. Sì, cosa è successo? Facciamo pubblicità, anche se è la concorrenza mia, ma sono tutti amici. In questo momento su Sky Sport 24 c'è un collegamento da Palermo. Sì. Vedi, c'è Di Marco, c'hanno 27 gradi. Guarda in che condizioni sta, ti sembra giusto? No. Io lì mi passo, vado lì, mi passa il raffreddore subito. La vita è ingiusta. Guarda, come si vedi come gesticola, ma perché è felice perché fa caldo. Leggera brezza, che leggerissima brezza. Non si vuole, ecco, si è mosso un capello, leggera brezza, quasi positiva. Stiamo parlando. Qua dietro al vetro, vedi, c'è brezza, il ciuffo, com'è? La brezza. Ma voi pelati con la brezza, che rapporto avete? Cioè, uno splendido rapporto. Sì, uno splendido rapporto con la brezza, con il vento, con tutte queste cose. No, ma per farci ancora più del male, sì. Sud America, sentiamo cosa è successo e poi parliamo anche di questo. Rodriguez è larghissimo anche dalla parte opposta in sovrapposizione. Diaz, attenzione, ottimo il movimento di Bacca! La rete al 15°! Colombia in vantaggio! Suarez, Cavani, dentro l'area, Cavani! Passa in vantaggio l'Uruguay al 53°! L'urlo di Tavares, l'urlo di Edinson Cavani! Dani Alves al 92°! Orellana dentro il pallone per Vidal, il 3-1 di Arturo Vidal, il gol numero 14 in nazionale. Es Gutierrez, punizione già battuta per Higuaín che cerca il pallone. Dunque, per riassumere, dall'altra parte del mondo, la Colombia ha battuto l'Ecuador 3-1 con doppietta di Bacca. Il signor Bacca, avercelo in maglia azzurra. L'Uruguay ha battuto 1-0 al Perù, avercelo. Vabbè, ho capito. L'Argentina avercelo Higuaín. Tutti quanti. Ma anche la riserva di Higuaín. Anche quello che sta a casa. Anche Cardi che sta a casa. Avercelo. Però, insomma, l'Argentina 2-0 sulla Bolivia. Venezuela 1, Cile 4, avercelo Vidal, Pinilla ne ha fatti due anche lui, potrebbe pure essere lui. Hai visto pure che anche Pinilla, no, la notizia è il Brasile, perché noi siamo qui a frignare un po' su questo 1-4 in amichevole con la Germania. Brasile 2-2 Paraguay, gol di Dani Alves al 91°, e il fatto è che adesso si va alla sospensione dei giochi fino alla prossima puntata, con il Brasile virtualmente fuori al prossimo mondiale, che Uruguay ed Ecuador 13, Argentina 11, Cile e Colombia 10, se ne qualificano 4, una vai playoff e il Brasile è sesto. mica male. Sì, io... il signor Dunga non se la passa benissimo. Beh, senza Neymar, innanzitutto è un'altra storia, questo è evidente. Però, insomma, non è la prima volta nella storia delle qualificazioni mondiali che Brasile e Argentina faticano e poi alla fine in qualche modo riescono sempre a qualificarsi. Per cui mi sembra che ancora ci siano margini di manovra. Detto che il Brasile vive una fase di involuzione tecnica abbastanza precisa, alla quale si unisce, dopo il lutto, perché tale è stato il lutto sportivo di Belo Horizonte, anche una condizione psicologica non facile. Cioè il Brasile si è scoperto dopo il mondiale e dopo quel 7-1 improvvisamente molto fragile, sì. La pressione sui giocatori è aumentata, punti di riferimento assoluti, faccio due nomi ovviamente: David Luiz, Thiago Silva, giocatori che erano e che rimangono grandi beniamini del pubblico, però insomma si sono scoperti improvvisamente molto meno al sicuro rispetto a prima. Quindi tutto questo secondo me incide sulla realtà di una nazionale buona, ma non così straripante. Non sì. Così straripante. Guido, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio per la partecipazione. Volevo solo dirvi, fare un applauso per Montolivo, perché sento che questo giocatore è talmente bistrattato da tutti che lui, nessuno si è accorto che l'anno scorso era un 8 e diventato un 4, si è adattato nel Milan a fare il 4 e non mi sembra che sia così stato scarso come tutti gli altri ieri. Ho sentito un'altra trasmissione, addirittura hanno detto che è un giocatore da Serie B, insieme a Thiago Motta. Ovvero il giudizio di certa gente sul calcio è molto, sì, sì, molto largo. No, io guardi, sono d'accordo, premesso che la coppia Thiago Motta-Montolivo non mi piace, e premesso anche che secondo me Montolivo vive un equivoco, nel senso è stato preso al Milan in un momento di difficoltà del Milan, con la responsabilità di dover diventare il giocatore capace di illuminare la manovra del Milan, e non l'ha fatto raramente. Però sono d'accordo con lei, cioè mi sembra che tante volte su Montolivo ci sia un eccesso di critica, e forse nasce proprio dall'eccesso di aspettative, cioè dal fatto che magari qualcuno si aspettava che questo giocatore potesse esplodere a dei livelli straordinari. Secondo me Montolivo è banalmente un buon giocatore con delle amnesie, sicuramente con una certa discontinuità, con del talento non straripante, ma non è nemmeno un giocatore. Però la prima stagione al Milan aveva giocato con una personalità decisamente maggiore, poi ha avuto gravi infortuni, eccetera. Anche in nazionale, se io penso al famoso Germania-Italia semifinale dell'Europeo a Varsavia, gioca una partita pazzesca. Non dico sinceramente, insomma, mi sembra è uno di quei giocatori sui quali dei quali si parla sempre molto e ci si divide in partiti, e a me sembra un buon giocatore. Sicuramente il salto di qualità che qualcuno immaginava potesse fare non è riuscito a farlo in termini soprattutto di continuità. Però insomma è quello, e secondo me è un giocatore che può essere anche utile per la nazionale. È chiaro che l'assortimento, soprattutto in un centrocampo a 4, quindi con due giocatori centrali, lui e Thiago Motta, è abbastanza complicato, perché c'è poco dinamismo. Ha vissuto comunque anche un paio di stagioni grigie anche nel Milan, cioè non è un leader, non è, però è il classico voglio cogliere il senso delle parole dell'ascoltatore e condividerlo anche, nel senso che mi sembra che ci sia su di lui un eccesso di critica spesso veramente feroce, insomma. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Dica, come va? Volevo dire solo due piccole cose. Dica. Uno è una sensazione che ho: quando i giocatori vogliono far fuori un allenatore si comportano così. È successo nella Roma, sta succedendo nel Milan e anche nell'Inter, secondo me. È un'altra cosa che volevo dire. E quindi dov'è il nazionale, dice? Secondo me... Sì, io parlo della nazionale o anche nei club. Però Gianni, per quanto riguarda la nazionale il discorso è già chiuso, nel senso che Conte se ne va, quindi c'è poco da far fuori. Però io ho questa sensazione, non è possibile. E poi volevo dire un'altra cosa, no? Ma non possiamo fare un passo indietro? Invece che della potenza, tornare indietro alla classe e all'esperienza? Non so, tipo Totti, Cassano, mi sembra che il treno sia passato, anche se lì più delle volte diceva la nazionale è un sogno aperto per tutti quelli hanno da 9 a 99 anni. Sì, come però quel Cassano lì, forse il suo anno migliore, non l'ha convocato legittimamente, per carità, però insomma questa qui era una frase, secondo me è una frase programmatica che Lippi ha detto tante volte, che è giusta sicuramente. Sicuramente a questa squadra un po' di talento manca, ed è chiaro quando non hai appunto gamba e testa come è successo ieri, e quindi fai queste figuracce, dici mamma mia come siamo poveri. perché non hai quegli appigli tecnici. Ieri non c'era neanche Verratti per poter dire no, quei giocatori che ti fanno sentire protetto, che ti fanno pensare che qualcosa possa succedere, ecco, questo non ce l'hai assolutamente. Questa sarà una nazionale muscolare, e per questo dovrà essere intensa, dovrà essere quadrata, solida, e sperare in bene, sperare che là davanti la leadership ce l'hai dietro, però la base ce l'hai dietro, ma anche dal punto di vista proprio della leadership emotiva della squadra. Anche a centrocampo possiamo fare tutti i nomi che vogliamo, ma non abbiamo un giocatore alla Pirlo, un giocatore in grado di prendersi in mano comunque una squadra. Però Verratti è un giocatore di qualità, sì. No, cioè, sì. Verratti è un giocatore di talento, di personalità, certe volte pure troppa, perché delle volte si prende dei rischi palla al piede anche eccessivi, però insomma è un giocatore da questo punto di vista che dà molto. Beh, i leader tecnici della nazionale insomma sono quelli, non è che ce ne sono molti altri. Morale ce la facciamo passare, dai, ce la facciamo. Ah, questa, ah, ce la facciamo passare, sì, sì. Questo 4-1 tedesco ce lo facciamo passare. Domani ci sentiamo al telefono? Domani ci sentiamo, non lo so, o al telefono, vedete come sto, c'è il raffreddore, però ho fatto un sondaggio, dicono che tra il 32 e il 33 gradi, sono freddissimo. Ciao ragazzi! Ciao Pierluigi Pardo, grazie Giorgio. È arrivato Cruciani, accorrete numerosi, accorrete. Ciao. Gianmarco Ferronati in regia, Federico Vini in redazione, ci sentiamo domani ragazzi. È finita!